Disco Della Settimana. Sul volto aveva i lividi, i pugni, gli occhi neri. E come un lupo lei non si fidava mai. E non aveva più le lacrime, neanche un sorriso. I vestiti strappati e gli schiaffi sul viso. Ma dentro agli occhi aveva la notte come la luna. E dentro agli occhi aveva le botte come la luna. Aveva il freddo dentro, il freddo che ti ghiaccia le mani. E non credeva più all'amore, e non voleva un angelo custode. La cinta sulla schiena, la faccia contro il muro. Il corpo pieno di segni, come un frutto troppo maturo. E come questa luna, vestiva sempre di nero. E certi giorni si nascondeva un po' nel buio. Ma dentro agli occhi aveva la notte come la luna. E dentro agli occhi aveva le botte come la luna. Aveva il freddo dentro, il freddo che ti ghiaccia le mani. E non credeva più all'amore, e non voleva un angelo custode. Ma se la stringevo forte, non pensava alla morte. Se la stringevo forte, non pensava alla morte. Se la stringevo forte, non pensava alla morte. Se la stringevo forte. Ma dentro agli occhi aveva la notte come la luna. E dentro agli occhi aveva le botte come la luna. Aveva il freddo dentro, il freddo che ti ghiaccia le mani. E non credeva più all'amore, e non voleva un angelo custode. E non voleva un angelo custode. Lei non voleva un angelo custode. Ciao Mauro. Ciao Erika, come vai da queste parti? Io passavo di qua, tu perché sei qua? Passavo di qua anch'io e volevo parlare di un disco, così un album nuovo appena uscito. Aspetta, stai parlando del disco della settimana? Disco della settimana! Dovremmo farla noi l'intro della sigla. Ecco, così perdiamo tutti gli ascolti. No, credo che non possa essere fatta questa cosa, non sia il caso di farla. Però possiamo fare così. Tu mi racconti un disco, io faccio finta di essere ignara e non saperne niente, e intanto diciamo a chi si sintonizza di che disco stiamo parlando. Allora, intanto poco fa abbiamo fatto ascoltare un brano, il primo singolo poi estratto da questo album di cui vi parliamo oggi. Di cui io non so niente. Di cui tu non sai niente. Il primo brano che vi abbiamo fatto ascoltare si chiama Come la Luna. Non so se avete riconosciuto la band, comunque una band nota nel panorama indie rock, lo mettiamo così? Chiamiamolo indie rock. Anche se di indie rock in questo pezzo io non ho sentito moltissimo, devo dire la verità, anche se mi sembra effettivamente di avere riconosciuto in particolare una voce che io mi ricordo era la voce di una band che faceva qualcos'altro. Allora sì, diciamo che c'è stato un forte cambiamento nelle sonorità di questa band, che poi più che band in realtà è un duo che ha sempre avuto anche degli altri musicisti intorno, Luca e Marco. Senti, ma saranno mica quelli che sono usciti con un nuovo disco il 13 novembre? Esatto, il nuovo album si chiama Sumo, ma non solo l'album ha un nuovo titolo perché è nuovo, ma anche la band. Vi dico subito, stiamo parlando dei Management, che molti di voi o la maggior parte di voi ricorderanno come Management del dolore post-operatorio. Tra l'altro band che io cito in una mia bruttissima canzone, e adesso dovrò cambiare il testo. Cosa faccio? O forse smetti però di mi rovina la rima. Vabbè, comunque... ne parleremo un altro momento, perché il disco della settimana di questa settimana non è il tuo, no, ma è appunto Sumo dei Management Non Più Post Operatorio, che è un album che è uscito il 13 novembre per Full Heads, e la distribuzione è di Believe Audio Globe. Quindi rispetto anche agli album precedenti che erano con la Tempesta, è proprio cambiata una serie di cose. Rimane il duo che è stato un po' il cuore di tutto il progetto dall'inizio. Questo è il quinto album in studio, e la band attualmente rimane composta da Luca Romagnoli, che si occupa della voce dei testi, e Marco Di Nardo, che invece è chitarra e compositore. Sumo è appunto il nuovo album, e le sonorità passano un po' da quello che era il post-punk fondamentalmente del Management del Dolore post-operatorio, a qualcosa che si avvicina più a un elettropop cantautorale, direi hard pop cantautorale. E detto ciò, dopo questa lunga introduzione, direi che vi facciamo ascoltare un altro pezzo, così voi entrate per bene in sintonia con Sumo, il nuovo album del Management, e vi facciamo ascoltare la canzone che dà il titolo all'album, la traccia numero 2, che si chiama appunto Sumo. Perfetto, vi ricordiamo che il primo pezzo che avete ascoltato si chiamava Come la Luna, ed è il singolo che è stato quello che ha anticipato l'uscita di Sumo. Aperti il vento sui capelli, le cose potrebbero andare meglio. Potrei essere più tranquillo, fare dei respiri più profondi, avere a fianco una persona che mi vuole bene. Potrei uscire più spesso. Sì, lo sento addosso come fosse il profumo di quei giorni splendenti nei tuoi occhi lucenti. E penso e ci ripenso ai nostri errori, a volte ridendo, a volte piangendo. Ho il telefono scarico come la nostra storia si sta spegnendo. Mentre porto il tuo ricordo addosso, sì, lo sento addosso come fosse un profumo. Questo tempo bastardo non fa mai un ritardo, è un lottatore di sumo. Mentre porto il tuo ricordo addosso, sì, lo sento addosso come fosse un profumo. Questo tempo bastardo non fa mai un ritardo, è un lottatore di sumo. Un posto di blocco con i suoi fanali, io con il cuore in mano che pesa un quintale. Mentre porto il tuo ricordo addosso, sì, lo sento addosso come fosse un profumo. Questo tempo bastardo non fa mai un ritardo, è un lottatore di sumo. Mentre porto il tuo ricordo addosso, sì, lo sento addosso come fosse un profumo. Questo tempo bastardo non fa mai un ritardo, è un lottatore di sumo. Un lottatore di sumo. Un lottatore di sumo. Un lottatore di sumo. Un lottatore di sumo. E abbiamo ascoltato il secondo pezzo estratto da Sumo, che ricordiamo è il disco della settimana che abbiamo scelto di presentarvi questa settimana, appunto, che è il nuovo album dei Management. Allora, perché abbiamo scelto quest'album? Perché a noi i Management del Dolore post-operatorio sono sempre piaciuti ed eravamo un po' curiosi di vedere che nuova forma avevano assunto, perché già da subito dicono: uè, noi abbiamo cambiato un pochino genere, sappiatelo. Quindi ci siamo incuriositi e abbiamo deciso di ascoltare le 10 tracce che compongono Sumo Fumo, che è uscito il 13 novembre, e ne abbiamo scelte due. Potremmo dirvi che cosa dicono loro. E loro dicono: questo disco ci ha portato a Nabule, la culla della musica italiana. Siamo entrati nell'Auditorium 900, ex Phonotype. Tra l'altro sono presi benissimo da aver registrato il disco lì, perché lo ripetono in tante occasioni. È stato proprio un momento molto bello, evidentemente, per la band. Beh, effettivamente, come dare torto anche a questa cosa? Nel senso, il Phonotype, che adesso si chiama Auditorium 900, è uno studio storico, forse uno dei più storici d'Italia, dei più importanti d'Italia, e si trova nel centro di Napoli. E negli anni 60, diciamo, cercava di essere tecnologicamente al passo con Abbey Road. E dicono: abbiamo registrato con una strumentazione fantastica e l'atmosfera che si respirava lì dentro aveva qualcosa di magico. È lo stesso studio in cui Totò, ad esempio, ha scritto il testo di Malafemmena, oppure in cui Murolo ha registrato la leggendaria Luna Rossa. Luna Rossa che, peraltro, è la copertina, il disegno di una luna rossa, è la copertina dell'album Sumo, che su sfondo bianco richiama la bandiera del Giappone, e da qui il Sumo. Quindi c'è tutto un collegamento astrofisico nucleare per questa cosa. Continuano: quando ci hanno raccontato alcuni aneddoti dello studio ci siamo messi a piangere, mentre registravamo avevamo la pelle d'oca e ci tremavano le gambe. Totò, Murolo, Edoardo De Filippo e tanti altri erano stati lì. Teatro, musica, cinema, stavamo calpestando la storia, toccando gli stessi strumenti che avevano toccato loro. Concludono dicendo: questo disco è pieno di quell'amore, di quella magia, di quella malinconia. È pieno di riferimenti a quel tipo di scrittura e di visione delle emozioni. Abbiamo cercato di respirare e riprodurre il senso di quella storia, attualizzandola. Sumo è venuto da lontano, dal cuore provinciale di due lupi abruzzesi, per finire nel caos meraviglioso di una città che ha saputo indicarci questa nuova via. Vi stupenderemo di nuovo. Qua citano l'album precedente, Un incubo stupendo, che tra l'altro è un album bellissimo, che andatevelo a ribeccare, ed era il quarto. Questo Sumo è appunto il quinto. E adesso direi che possiamo ascoltare il quarto pezzo che estraiamo da Sumo, che ricordiamo è uscito il 13 novembre e contiene 10 tracce. Cosa pensi? Cosa scegliamo? Per i tuoi occhi tristi. Oh, ma non sono triste. Beh, noi scegliamo comunque questa traccia numero 5 di Sumo, che si chiama Per i tuoi occhi tristi. Chissà dove sono adesso i tuoi occhi, chissà cosa stanno guardando, chissà a cosa stanno pensando, se si stanno annoiando. Chissà dove sono adesso i tuoi occhi, forse li hai chiusi per dare un bacio, o per godere, o per sentire un richiamo lontano, o forse per scomparire. Cerco Eccoci tornati dopo avervi fatto ascoltare Per i tuoi occhi tristi, che è un'altra delle tracce estrapolata da Sumo, nuovo album del Management. Per chi non li conoscesse troppo bene, vi raccontiamo un po' anche chi sono e cosa hanno fatto loro negli ultimi anni. Infatti, allora, il Management, ora solo Management, è un gruppo nato come una band art pop italiana guidata da Luca Romagnoli e Marco Di Nardo, che attualmente sono i due musicisti che compongono il Management. Hanno all'attivo attualmente 4 album. Il primo è stato Auf, che noi adoriamo, che è uscito nel 2012. Adoka! Che sostanzialmente è stata un'anticipazione di quelli che poi erano gli album successivi. MacMao nel 2014, I Love You nel 2015 e, appunto, come vi abbiamo citato poco fa, Un Incubo Stupendo, che è uscito nel 2017. Tra l'altro, I Love You e Un Incubo Stupendo sono stati prodotti con la storica etichetta anche dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che è la Tempesta Dischi. Da quest'album in poi invece le cose sono un po' cambiate. Il Management del dolore postoperatorio ha vinto anche il premio come miglior band live per il MEI Faenza nel 2013. E ha all'attivo centinaia di concerti, dal Popcom di Berlino allo Ziget Festival di Budapest, dal concerto del 1° maggio di Roma del 2013, in cui hanno fatto una performance che non vi sto a raccontare, ma insomma è entrata negli annali, proprio nella storia dei concerti del 1° maggio, delle esibizioni più particolari dei concerti, a Taranto nel 2015, sempre sul palco del 1° maggio, a tantissimi palchi calpestati tra i migliori live club, auditorium e festival italiani. Peraltro, quando poi leggerete l'articolo, scoprirete che c'è un link che vi porta a una delle prime interviste che abbiamo fatto a loro quando hanno suonato al Covo Club qui a Bologna. Ma pensa, tantissimo tempo fa, adesso non mi ricordo, erano passati 2 anni. Tantissimo tempo fa, sì, 2 o 3 anni, dai. Beh, ho capito, 2 anni è del tempo che passa. Pensate, link all'interno di articoli, coincidenze? Io non credo. Nel luglio 2018 la band ha firmato per la Universal Music Italia ed è uscita col singolo Kate Moss. Esatto, poi al giugno del 2019, quindi pochissimi mesi fa, è un po' la volta di far uscire Saturno fa Lula Hop, molto divertente, che è un video in animazione diretto e disegnato da un regista che si chiama Ivan D'Antonio e che viene nominato anche tra i video da premiare al Best Music Video al TMFF e al Beat Bang Fest in Argentina. Comunque è un video che gira moltissimo, ecco, ed è riconosciuto e gradito in generale. Poi il 13 novembre, appunto, è arrivata la volta di Sumo, che è il disco di cui oggi vi stiamo parlando, anticipato da Come la Luna, che è il primo pezzo che abbiamo ascoltato oggi. All'interno di questo album, la traccia, l'ultima traccia di quest'album, che è la canzone numero 10, si intitola Sesso Sesso. Ma c'è un hashtag che magari il Giovanotti farebbe fatica a nominare. Feffo feffo. Feffo feffo. No, scusate, questa è veramente stupida. Sesso Sesso. Tra parentesi, che hashtag, perché è tutto, sì, con infatti, l'R, non è che... Vabbè, lasciamo stare queste digressioni. Cioè, hashtag collective song. E che cosa significa? Che questo pezzo, Sesso Sesso appunto, è una canzone collettiva realizzata insieme ai fan sui social. Quindi loro hanno contattato i loro fans e c'è un po' un miscuglio che poi sentirete nella canzone che adesso vi faremo ascoltare. Allora, per concludere, quindi vi ricordiamo che oggi abbiamo parlato di Sumo, uscito il 13 novembre, che è il nuovo album dei Management, non più Dolore Postoperatorio, quindi solo Management. Abbiamo un po' di nostalgia per il vecchio nome. Sì, l'abbiamo nominato un po' di volte. Questo album è uscito da pochissimo e contiene 10 tracce. Vi abbiamo raccontato che cosa dicono loro e dell'affetto che hanno provato per il luogo dove è stato registrato quest'album, un pochino la loro storia. Noi vi invitiamo a sentire l'album completo e anche, se volete, ad ascoltare l'intervista che abbiamo fatto diverso tempo fa al Covo, quando erano ancora Management del Dolore Postoperatorio, e anche a scoprire la loro produzione precedente. Insomma, vi lasciamo con quest'ultima traccia, la traccia numero 10, che si chiama appunto Sesso Sesso, quella che Mauro vi ha appena raccontato. Fujiko Factory del lunedì finisce qua, ma torna domani, e noi invece torneremo mercoledì con un'intervista bellissima. Mamma mia! Ciao! Ciao! Sesso, sesso, tutto il sesso. tanto. Questo porno non comincia se non arrivi tu.